Il Torrione di Pitini Production, in collaborazione con A Fontana Inguinata Sempre di Pitini, presentano una novità assoluta. Il programma Una cambiale per te. Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata di C'è posta per una cambiale per te. Facciamo entrare Angiolina e Spaccapiriti. Buonasera Mario e buonasera a tutto il pubblico, ma io stasera soprattutto voglio salutare con Marannina da Pezzarosa. Signora Angiolina, lasciamo fricare i saluti e veniamo alla ficuniana in questione. Lei ci ha contattati per incontrare il suo ex marito, Pippinina Scangriccata, il quale le ha lasciato dopo che ha scoperto che lei ci faceva corna con Maruzzi in balletta. È così? Sì, io vi ho chiamato più di cacchiero cornuti i mariti, ma magari mi va a far ricogliere a casa. Mo che Maruzzi in balletta è morto, io non so c'è dove ire. Ed è pensato che avevo cornuto mi volesse attorno. Sappiamo se avrò già calassato l'è passato. Tu che dici? Signora Angiolina, lei si è comportata proprio una zoccola. Però noi ci proviamo a ben bici torna a cru con uno dei peppini una scaggiccata. Ottavia! Ha trovato Peppino! È provocato! Sì, Mare, quando l'hai trovato? Sotto una tempo che con gli asparagi! Il signor Peppino ha accettato l'invito? Te vuoi sapere, dopo che ha accettato gente, voi ha preso un benino. Il signor Peppino è qua, piezzi. Buonasera a tutti, signora Maria, vostra mi piacete, mi volete sposare, lasciate fricacchiero, ci ha cagato il marizio Costanzo Show. Signor Peppino, lo sa che l'ha mandato a chiamare? Lo sapevo, era venuto a qua, speriamo con buon ancora sordi, comunque facetemi vedere che ne è, ormai sono venuto, a quando ci sono arrivato con l'ambrata a Roma, ci ha messo 3 giorni, che hai voluto lasciare una cascettiera per cugino ma salire. Allora vediamo chi l'ha chiamata. Apriamo la prima parte della busta. La conosce? Usa caca no, c'è chi la zoccola di mogliermo. Bastardo e maledetto. Ma Come l'ha lasciata? Lo so che è emozionato adesso. Ma l'ha lasciato come un roccolo per si accolca con Maruzzi di balletta. Lei cosa dice, signor Peppino? Può parlare o la chiudiamo questa cambiale? Lo so che ci vuole pensare un po', magari un attimo, faccio un po' lei. Sì, Mari. Io ci ho detto dentro a 4 tavole e tassa dentro la grata. Comunque vediamo che cosa specifica una per l'offenda. Caro Peppino, il signor non ti ha capito e ti chiede scusa. Che ti hai fatto i corna e che mi voglio ricogliere a casa. Segno disposto a tutto. Io ti perdono, ma dentro il letto con me non ti scorchi ciò. Ti faccio una bella caccia fuori. Così mi guardi pure È emozionato, sì. La vedo un po' emozionato. Dice. Facciamoci un applauso, ragazzi. Dai, con Paolo Peppe, cacci se ci segno, ci segno, non mi preoccupate. Comunque, ti stava dicendo, me lava, me stira, me cucina mia, e ricane. Ti conviene? Se non chiudiamo a cambiare, te ne va pure a fangolo. Oi Pippi, meglio niente a cito. Però ogni tanto mi potessi a fare un giro. Se poi ero a fangolo e ti ricogli, va buono? Va buono allora, ya, rapasa a cambiare, ma. Signor Peppino, allora apriamo la cambiale? E rapiamo sa cambiale, ma è una cambiale più sa zoccola però, no per mia. Apriamo la cambiale! Oi Peppi, ma cugino da Salvatore sta ancora con te? Sì, ne c'è ancora, perché? Meno male, che così quando mi vengono con io i chirozzazzo mi ci pozzo l'età. Tanto Hai buttato zoccola fregata con ziaccio, hai pezzato la mala femmina. E anche questa puntata si è conclusa a lieto fine. Vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima puntata con la nostra storia altrettanto travolgente.